Nord-sud, sud-nord, il poema degli opposti estremismi, poema protagonista, poema antagonista, poema protagonista, un poema contro. Oramai la nave è in mano al cuoco di bordo e ciò che egli trasmette dal megafono del comandante non è più la rotta da seguire, ma la lista di ciò che domani mangeremo. Kierkegaard. Nord-sud. Sud-nord, sud-nord. Hai mai visto il sud-nord e il nord-sud? Cosa c'è? Una donna grigia, una bianca, una donna grigia molto luminosa. Ci sei mai stata? Il minimo sentore che esiste, sapere che esiste c'è qualcosa nelle allegre, nord-sud, sud-nord, che cos'è nord-sud, il sud-nord? Hai mai visto il sud-nord, forse una zona grigia, né bianca, né nera, una zona grigia molto luminosa? Ci sei mai stata, nino, sentore che esiste, sapere che esiste, c'è qualcosa? Rende allegri, allegro, ma paragoniato nord-sud, sud-nord, nord-sud, che cos'è nord-sud? Il sud-nord. L'hai mai visto? Il sud-nord, nord-sud, forse una zona grigia, né bianca, né nera, una zona grigia molto luminosa. Ci sei mai stato, il minimo sentore che esiste, sapere che esiste già qualcosa di allegri, allegri, magari agognato, nord-sud, sud-nord, nord-sud, che cos'è nord-sud e sud-nord? L'hai mai visto il sud-nord e il nord-sud? Forse una zona grigia, né bianca, né nera, una zona grigia molto luminosa. Ci sei mai stato, il minimo sentore che esiste, sapere che esiste già qualcosa di allegri, allegri, oh mio caro agognato, nord-sud, sud-nord, nord-sud. Che cos'è il nord-sud? Il sud-nord? L'hai mai visto il sud-nord? Il nord-sud? Forse una zona grigia, né bianca né nero, zona grigia, molto luminosa. Ci sei mai stato? Il minimo sentore che esista, sapere che esiste c'è qualcosa. Rende allegri, allegri, oh mio caro, tanto agognato nord-sud, sud-nord. Che cos'è il nord-sud? Il sud-nord? L'hai mai visto il sud-nord? Il nord-sud? Forse una zona grigia, né bianca né nero, zona grigia, molto luminosa. Ci sei mai stato? Il minimo sentore che esista, sapere che esiste c'è qualcosa. Forse una zona grigia, né bianca né nera, una zona grigia molto, molto, molto, molto luminosa. Nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sud, nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sud, nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sud, nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sud, nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sud, nord, 1, 2, 3, 4, 5, sud, nord, 1, 2, 3, 4, sud, nord, 1, 2, 3, sud, nord, 1, 2, sud, nord, 1, sud, nord, nord, sud, nord, nord, sud, nord, nord, sud, sud, nord, nord, sud, nord, nord, sud, sud, nord, nord, sud, nord, nord, sud, sud, nord, sud, nord, nord, sud, sud, nord, nord, nord, sud, nord, nord, sud, nord, nord, sud, nord, sud, sud, nord, nord, sud. No. Sir. Sure. North, sud, north, sud, north, sud, north, sud, north, sud, sud, north, sud, north, sud, north, north, sud, sud, north, sud, north, sud, north, north, sud, north, sud, sud, north, sud, north, north, sud, sud, north, sud, north, north, sud, sud, north, north, sud, sud, north, north, sud, sud, north, north, sud, sud, north. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Assurd! Dove vai? Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai? A nordine. Io vado al polo sud. Io vado al polo nord. E io vado al polo sud. E io vado al polo nord. Io vado al polo sud. Io vado al polo nord. E io vado al polo sud. Io vado al polo nord. Io vado al polo sud. E io vado al polo nord. Io vado al polo sud. Io vado al polo sud. Io vado al polo sud. Io vado al polo sud. Io vado. Chi sei? Chi sei? Chi sei per andare al polo nord? Il sud! Il su! Il su, il su! Via di qui! Via, via! Via di qui! Via! Chi sei per andare al polo sud? Il no! Il mio grandissimo no a te! Dimmi la differenza, dimmi la differenza tra africano, nordafricano, dimmi la differenza tra americano, americano, dimmelo la differenza tra americano, nordafricano, dimmi la differenza tra africano, americano, nord italiano, dimmelo la differenza tra nordamericano, sud italiano, dimmi la differenza tra italiano, nord italiano, dimmi la differenza tra italiano, nord italiano, sud americano, dimmi la differenza tra italiano, nord italiano, sud americano, dimmi la differenza tra italiano, nord italiano, sud americano, nord africano, dimmi la differenza tra nord africano, sud africano, nord italiano, sud americano, sud italiano, ma dimmi la differenza. Dimmi la differenza tra una poesia sonora e una poesia lineare. Il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, detto a sud cambia. Il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, detto a nord cambia. Il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, cambia, detto a sud. Il non detto, il suddetto, il non detto, il suddetto, il non detto, cambia, detto a nord. O sud, sudditi, sudditi, suddito, udite, udite, udite, su, col dito. Dire la parola nord, dire la parola sud.

Siamo a nord, su, più su, siamo a nord, più su, siamo a nord, più su, siamo a nord, più su, siamo a nord, più su, siamo a nord, su, il sudore a ore. A nord l'industriale, a sud il maiale. A sud l'industriale, a nord il maiale. A nord il barile, a sud il cortile. A nord il cortile, a sud il barile. A nord lo sfruttatore, a sud il dolore. A nord il dolore, a sud lo sfruttatore. A nord il datore, a sud l'adulatore. A nord l'adulatore, a sud il datore. A nord il capitale, a sud il male. A sud il capitale, a nord il male. A nord l'imperare, a sud l'arare. A sud l'imperare, a nord l'arare. A sud metropolitano, a sud urbano. A sud metropolitano, a nord. Va. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Nord. Okay. Che bello sarebbe che i normanni fossero sudanesi e i sudanesi dessero la mano ai normanni.